me va bene, nannarella, ne tegno le prove, ne tegno le prove. Fanno passo, non si muove, tu cala, divo sta con me. Se da casa nasce una gria, la vedo pensosa per tutta la via. Cento cose affettuose, la cremenda mi dice così. Vettene subito, vettene, solo un gistogno sbrigate, già tu lo sai che si là. Steva fritta, nannarella, chi sani di guerra, chi sani di guerra. E penseva alla trincera, a Toghelle, di non stiamo a soffrire. Ma venuta in la pace, ballando per cuore che non si dà pace. Delle amiche, ste dorighe, furiata va a scrivere così. Vettene subito, vettene, se noi ottate le sciabole. Tu lo sai che sei angelo, io ero di casa me. Vettene subito, vettene, se noi ottate le sciabole. Tu lo sai che sei angelo, io ero di casa me. Vettene subito, vettene, se noi ottate le sciabole. Tu lo sai che sei angelo, io ero di casa me. Vettene subito, vettene, se noi ottate le sciabole. Tu lo sai che sei angelo, io ero di casa me.